La casa che ci aspetta, l'altra, la seconda casa, è Lui che ce l'ha costruita, con la sua incarnazione, passione, morte e risurrezione. Senza di me non potete entrare. E maestro, qual è la porta per la quale dobbiamo passare? Eccola la porta, la vedete, nel fianco. Guardate, nel fianco. C'è una piaga, una ferita aperta. È la porta. Cristo ha detto, io sono la porta. Senza passare da me voi non potete entrare nella casa di Dio, nel regno di Dio, nell'eterno paradiso. Cercatela quella piaga, cercatela quella ferita. Cercate quel divino amico, cercate quell'abbraccio, cercate quel bacio, è il bacio di un Dio uomo che ha potere di risvegliare in voi l'innocenza battesimale, fare di voi peccatori altrettanti santi d'altare. Ditemi se non è bello questo. E a quale prezzo? Un prezzo che dovremmo capire, è molto bello sborsarlo. Sentite, ancora un paragone. Se davanti all'uscio di casa mia passasse ogni sera uno stracciaiuolo e mi dicesse, per favore, avete rifiuti che io vi porto via tutto e tutto brucio? O penso che considereremmo questa persona come un benefattore. Tutte le sere passa a portarmi via tutte le miserie, le cartacce, i rifiuti. Non ho da aspettare che venga, chissà, il netturbino. Questa è una persona gentile che ti ringrazia quando le hai dato tutte le tue miserie e ti ha lasciato la casa pulita. Oh, Deo gratias. Sapete chi è questo stracciaiuolo? Non straccivendolo, stracciaiuolo è lui che tutte le sere bussa all'uscio della vostra coscienza a chiedervi i vostri rifiuti. Dammi i tuoi peccati, che io li incenerisca, perché tu riacquisti bellezza e splendore, innocenza, pienezza di grazia e di santità. Questo è Gesù Cristo, che mestiere è venuto a fare sulla terra, a raccogliere i nostri rifiuti, i rifiuti della nostra coscienza, i rifiuti della nostra anima, i delitti di Barabba, i delitti del ladrone, avrebbe raccolto anche il delitto dei delitti, il deicidio commesso da Giuda, se Giuda gliel'avesse dato col suo pentimento. Quando noi ci pentiamo, buttiamo nel fuoco del pentimento, nel fuoco dell'amore misericordioso, gettiamo i nostri rifiuti e tutto si rinnova in bellezza, in splendore. Chiediamola questa grazia, io per voi, voi per me, che davvero ogni sera ci garantiamo di aver prenotato un posto nell'aldilà eterno. L'avete prenotato il posto? Vi siete comportati da galantuomini oggi? Avete vissuto secondo Dio oggi? Oh, andate a letto contenti. Avete prenotato quel posto per conquistarvi il quale Gesù Cristo lo vedete in croce. Sono qui perché tu possa prenotarti un posto di là, nell'oltretomba, nel mistero della trascendenza divina. Il bilancio della giornata, un attimo, che cos'hai sulla coscienza al termine di questo giorno? Hai buone azioni? Hai parole giuste, oneste, sincere? Hai comportamenti retti? O hai peccati? Se hai peccati, non coricarti con questa serpe in seno, Non coricarti con questa zavorra nella coscienza. Pentiti, butta il fuoco, al fuoco del pentimento cui corrisponde il fuoco del perdono e della misericordia. Ogni sera. Ah, se lo faceste, potremmo fissare certamente insieme l'appuntamento in paradiso. C'è un film che si intitola Appuntamento in paradiso. Potremmo girarlo anche noi questo film. Se veramente tutti, nessuno escluso, adottasse quello che vi ho suggerito stamattina e in questo pomeriggio, ogni sera. Una domanda. Ho prenotato oggi il mio posto nel regno di Dio? Che cosa c'è sulla mia coscienza al termine di questo giorno? Ho dei peccati, degli scandali, dei tradimenti, degli adulteri, delle bestemmie, delle calunnie, delle ingiustizie, quel che c'è. Me ne pento immediatamente, do al fuoco questa zavorra, ne chiedo perdono e il fuoco dell'amore incenderà tutto. Se fate così all'appuntamento, alla fine mancherebbe nessuno, ci saremmo veramente tutti. Sia proprio così, io ve lo auguro. Voi lo augurate a me, appuntamento in paradiso. E sia davvero così per tutti.